Che dire, io dico solo una cosa, veramente, cioè, siamo a Leoncavallo, siamo in un centro sociale, metropolitano, luogo del conflitto, balababà, poi boh, non lo so, le altre cose. Però, cioè, io era, non so, da tanti anni che non sentivo portare una potenza eversiva rispetto al modo e al mondo in cui viviamo. Cioè, ci devono venire gli agricoltori, i contadini, a spiegarci che si può ancora parlare di cambiare il mondo, di avere una prospettiva, incazzati, con un senso di responsabilità, con una cultura. Cioè, io sono contento, quindi viva la terra trema.